Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Stai ascoltando Runtime Radio. Player One, get ready! Runtime Radio presenta Archeologia videoludica. Archeologia videoludica. Carissimi amici di Runtime, www.runtimeradio.it, sono le 21.30, torniamo puntuali con Archeologia Videoludica. È arrivato il grande giorno, il giorno della puntata che tanto abbiamo pubblicizzato, che tanto abbiamo atteso, che tanto abbiamo lavorato, non io perché chiaramente io non ci ho lavorato io, ma questo non significa che io non mi prenda anche dei meriti per tutto questo, perché se non ci fossi io l'intervista non sarebbe mai esistita, non è vero, sto scherzando, ma benvenuti quindi in Archeologia Videoludica. Ricordate Archeologia Videoludica, cercatela su Spreaker e abbonatevi al feed, ma oramai poi piano piano insomma ci saranno delle trasformazioni. Mi raccomando, seguite runtimeradio.it, seguite il pulsante Runtime Anch'io, dove potete tranquillamente contribuire al nostro progetto che continua a crescere di mese in mese e continuano a fare delle scelte strategiche che aumentano i costi del servizio che andiamo a pagare, ma lo facciamo perché chiaramente maggiore sarà il tipo di servizio che diamo a voi. Detto questo, ovviamente vi ricordo anche che c'è uno shop che però ancora non è disponibile sul sito, ma che piano piano sarà disponibile. Ciò nonostante, i link già girano nelle nostre chat, e le nostre chat, ovviamente la nostra chat di riferimento è Dirette Runtime Radio su Telegram, che è ovviamente il nostro punto di riferimento, e lì già girano questi link dove gente ha già comprato tazze di survival hacking, felpe di archeologia informatica, tappetini mouse di Runtime Radio, cappellini, abbigliamento, tazze, boccali della birra. Insomma, devo ringraziare veramente tutti quelli che stanno contribuendo in maniera incredibile, perché questo mese, diciamo, abbiamo fatto un bel boost che appunto ci ha permesso anche di fare delle scelte che ci porteremo avanti perlomeno per i prossimi due mesi. Detto questo, io intanto do il benvenuto e ringrazio i miei compagni di viaggio, ossia Carlo Sant'Agostino, che non ho desilenziato, scusa, Carlo Sant'Agostino. Rinnovo i saluti a tutti, ciao. Perfetto. E ovviamente anche Roberto Domaiuolo, ciao, per la prima volta su Archeologia Videoludica. Ciao a tutti, grazie e bentrovati. Bene, poi adesso passo la parola a Carlo che ci dice alcune cose e poi Carlo passerà la palla a Roberto che così ci spiegherà perché Roberto è per la prima volta su Archeologia Videoludica, giustamente. Esattamente. Vabbè, allora iniziamo prima di tutto, giustamente tu nell'introduzione hai detto che ci saranno dei cambiamenti e infatti cogliamo l'occasione di questa, diciamo, importante evento che è questa intervista per annunciare che abbiamo deciso, un comitato di redazione che si è riunito alle 3 di mattina, giusto Simone? Sì, no? Sì, certo. Abbiamo fatto la riunione dalle 3 di mattina fino alle 6 più o meno. Abbiamo deciso che Archeologia Videoludica, per come si è evoluta negli ultimi anni, per come si è trasformata, per quello che è diventata praticamente molto similare come impostazione a quella che è l'impostazione che ha da anni Archeologia Informatica, e in effetti anche gli stessi ascoltatori spesso confondevano Archeologia Informatica con Archeologia Videoludica nelle ultime puntate. Quindi si è deciso di dare, diciamo, un'uniformità al format, e Archeologia Videoludica diventerà praticamente una rubrica di Archeologia Informatica, quindi rimarrà il podcast Maestro, che è quello di archeologia informatica, il podcast principale, e quando si parlerà di videogiochi sarà una la rubrica di archeologia videoludica all'interno di quello che è la trasmissione, il sito e tutto quanto di archeologia informatica. In questo momento, per questa stagione, in realtà cambia poco se non quello che sto dicendo, cioè semplicemente a livello, diciamo, decisionale di redazione, ma ci saranno ancora entrambi i feed, quindi verranno mantenuti sia il feed di archeologia informatica che quello di archeologia videoludica, e le trasmissioni molto probabilmente verranno duplicate, quelle di archeologia videoludica, sia sul feed di videoludica che sul feed di informatica. Dalla prossima stagione invece includeremo le puntate di archeologia videoludica all'interno del medesimo feed di principale di archeologia informatica, nel quale diventerà una rubrica fissa. Ma veniamo al dunque, no? Il nostro Roberto è riuscito, insomma, in questa impresa, per questo che oggi abbiamo qua Roberto Tumaiolo in archeologia videoludica, perché grazie alle sue onnipotenti conoscenze, cosa è riuscito a fare, Roberto? Dicelo tu. Sì, adesso non ripetiamo quello che fra pochi secondi, perché non rubo tempo, immagino che chi ci ascolta vuole sentire non tanto noi, ma il protagonista. Siamo riusciti a fare questa intervista a Francesco Carlà, tanto c'è scritto nel titolo, quindi non fingiamo. Niente spoiler. Insomma. Niente spoiler. Una cosa che in realtà, Simone lo sa, abbiamo cominciato a discutere prima che scoppiasse la pandemia, quindi è stato un parto abbastanza difficile, non tanto per Francesco, che per la verità ha accettato subito, però mettere insieme noi le cose in questo periodo è stato la durata stessa dell'intervista è la durata che, come vedrete, non è breve, quindi questo volevo dire due cose rapidissime. La prima, tanto solo per gli intimi che ci staranno ascoltando adesso in diretta, noi stessi ci siamo sorpresi, almeno io e Carlo, sia alla fine della durata dell'intervista, sia almeno in parte dei contenuti. Vedrete che molte cose sono note, perché comunque si sanno, girano, però ci sono diverse cose che non sono note, o comunque non sono note esattamente per come ce le racconterà Francesco Carlà. Questo sia per quanto riguarda il passato, e c'è anche qualche cosa che, per cui vi consiglio di rimanere fino alla fine per sentire quello che pensa lui sul futuro e su come intende lui certe cose. Adesso qui davvero non vi faccio spoiler, che è diverso da come è scritto ovunque, e questo potrà avere un impatto sul futuro. Questa è una cosa. Un'altra cosa è lo stile che noi abbiamo voluto mettere in questa intervista, che è stato il più possibile far parlare Francesco. È ovvio che ci sono delle domande, un canovaccio e quant'altro, però la nostra intenzione davvero era quello di far parlare lui. E il consiglio che mi permetto di dare io, e concludo con questa cosa, è che, conoscendolo da molti anni, è davvero di ascoltare il suo ragionamento. Poi si potrà essere d'accordo o meno, perché questo, cioè, va benissimo, è umano, però lui è fatto così, e il suo ragionamento è quello che poi mette davvero in pratica. Io ve lo posso garantire, perché, vi ripeto, lo conosco in parte anche un po' dal punto di vista professionale, per cui lui è come appare, e questo comunque è una cosa per cui era importante mettersi, almeno per noi, in un assoluto ascolto neutrale, tra virgolette, e registrare quello che ha detto. E con questo non rubo altro tempo e vi ripasso la palla. Bene. Mi fa molto piacere, sì, questo esordio in archeologia videoludica. Io non sono affatto un esperto di videogiochi, tanto per essere molto chiaro. E quindi grazie ancora. Vabbè, diciamo che sei entrato a gamba tesa, come dicono quelli. Ci hai portato il super ospite. Che sanno, esatto. Intanto saluto Marble Madness, che ci ha pizzicato su Spreaker subito proprio. E tra l'altro lui chiede di fare una sorta di aggregazione globale chiamata archeologia geek, cioè, nel senso, lui dice dovremmo fare tutto, pure dalle ci mettiamo dentro, tutto. Non esageriamo. Chissà chi ha proposto una cosa simile, ma non diciamolo. Non lo diciamo, diretta, non lo diciamo. Le cose di che, piano di piano, un passo alla volta, come di 5 del mattino della riunione. Come dice, esatto, come dice Claudio Lodito, la politica dei piccoli passi, insomma. Grande Claudio Lodito, che noi stimiamo tantissimo, no? Giusto? Va bene, ragazzi, vi saluto e vi saluto a Carlo, che ringrazio chiaramente tanto, e a Roberto Tomaiuolo, che ringrazio ancora di più, perché chiaramente ci ha permesso di fare veramente questa, che è un'esclusiva, poi lo direte insomma anche durante l'intervista, perché non è assolutamente comune il fatto che Carla rilasci appunto delle interviste. Grazie a tutti e buon ascolto. Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di Archeologia Informatica. Come preannunciato, si tratterà di un grande episodio dedicato a un argomento di grande interesse e legato soprattutto a quella che è la storia dell'informatica e del videogioco in Italia. Abbiamo lasciato un velo di mistero intorno al super ospite che siamo riusciti a contattare e di cui abbiamo potuto avere un'intervista in esclusiva. Grazie ovviamente al nostro Roberto Tomaiuolo, che è qui presente con me. Ciao Roberto. Ciao Carlo. Ciao. Grazie, diciamo, a una sua conoscenza di questo personaggio legato, come ho detto, alla storia dell'informatica, alla storia del videogioco in Italia. Introduciamo oggi quella che potrebbe diventare un'intervista molto interessante per i nostri ascoltatori, soprattutto perché tratta di un argomento e di un periodo di cui tanto si parla, ma in realtà poco effettivamente si conosce a livello proprio di realtà dei fatti, di quello che è successo, di come si è evoluto il mercato. Io ho parlato spesso della situazione del mercato videoludico in Italia nella sua nascita negli anni 80, negli anni 90, ma oggi potremmo avere, diciamo, il punto di vista di uno dei suoi protagonisti. Stiamo esattamente parlando di chi, Roberto? Introduci. E aspetta, allora aggiungiamo un po' di thriller a questo argomento. Parliamo di un imprenditore nell'ambito videoludico e informatico e poi di tante altre cose. Parliamo di un giornalista che ha scritto sulle maggiori riviste del settore e non. Parliamo di una persona assolutamente eclettica e molto nota, e parliamo di una persona solitamente abbastanza schiva a fare queste cose, per cui di nuovo lo ringraziamo per essere qui con noi. Penso che ormai avrete capito che stiamo parlando di Francesco Carlà. Ciao Francesco e grazie di essere con noi per questa puntata. Grazie a voi e grazie anche agli ascoltatori del vostro podcast. Comincerei con qualche domanda per cominciare. Francesco, come e quando hai cominciato ad occuparti di videogiochi? Ma la faccenda è molto remota e stiamo parlando del fatto che un certo pomeriggio, invece di trovare il mio solito flipper che mi aspettava in un bar, trovai con un certo disappunto uno strano armadio con un monitor dentro e con due lineette verticali che si inseguivano e si scambiavano un quadratino con uno strano rumore sintetico. Il disappunto è diventato nel giro di pochi minuti una grande curiosità, perché quello che c'avevo davanti era il primo videogame in assoluto, cioè Pong, una creatura di Nolan Bushnell dell'Atari, ed era in una sua versione particolarmente artigianale, cioè era stato proprio uno dei primi circolati in Italia. E dopodiché fui costretto a cercare di capire che cosa ci si faceva con questo coso. E fu fulminante il rapporto, perché immediatamente capii che quella... c'era una... non c'era il joystick a quei tempi, c'era una manopola. Questa manopola serviva a tirare su e giù le racchette ideali, simulate, come direi io. E quindi era una simulazione del ping pong. E si vede che io avevo già una fascinazione dentro da qualche parte per le tecnologie. Vorrei dire che io sono nato nel 61, quindi insomma, i vostri ascoltatori potrebbero pensare che stanno parlando con un 95enne, stanno ascoltando un 95enne, ero molto giovane, però la fascinazione fu immediata lo stesso, cioè immediatamente capì di essere davanti a qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista dei consumi di entertainment. Capì che si trattava di una, non so come, adesso probabilmente a quei tempi non lo capì in maniera ovviamente così, così distinta come adesso, ma capì subito che si trattava di una fusione tra la televisione e qualcosa d'altro, poi questo qualcosa d'altro ovviamente era l'informatica, no? E niente, quindi questa fascinazione fu immediata e andò su, da subito oltre l'idea di passatempo, di divertimento, quindi andò subito oltre quello che invece facevo il giorno prima, dal giorno, i giorni precedenti con il flipper di Gottliebs. Quindi è nata così ed è stato, come si dice, un coup de foudre, cioè una specie di colpo di fulmine immediato. Cioè mi ha subito sia interessato che affascinato che convinto che ci fosse molto di più sotto. Poi la cosa ovviamente è continuata a questo punto. Io sono sempre stato un tipo molto curioso e quindi ho cominciato a cercare di informarmi. Per le persone oggi il concetto di informazione è completamente diverso da quello che era nella mia generazione. Cioè nella mia generazione informarsi significava lottare. Non significava andare davanti a uno schermo e scrivere una cosa su Google. Significava chiedere, scrivere, muoversi fisicamente. Infatti, quando poi hanno cominciato a uscire altri videogiochi, Breakout, per esempio, che era sempre dell'Atari, che era un altro videogioco di Bushnell, sempre con la manopola, stavolta si trattava di buttare giù una specie di muro. Io poi nella tesi di laurea sulla storia dei videogiochi ho scritto così un po' fantasiosamente, forse si trattava di tirare giù il muro di Berlino, perché in effetti il muretto dopo un po' andava giù a colpi di queste palline quadrate. Quindi quando ho cominciato a vedere che il videogioco Pong non era un fatto isolato, ma c'era un'evoluzione tecnologica, perché Breakout era a colori, per esempio, mentre Pong era completamente in bianco e nero, ho capito che questa storia sarebbe diventata complessa, articolata, sempre più interessante. E l'estate andavo a Londra per lo studio dell'inglese, per altre ragioni così, e lì c'erano arcade gigantesche, sale giochi giganti, per lo più nel West End, nella zona di Piccadilly, dove c'erano tutti i videogiochi all'epoca disponibili, che detta così sembra che magari ce ne potessero essere centinaia, invece ce n'erano qualche decina, probabilmente 15 o 20, non di più. E la cosa che può apparire stranissima agli ascoltatori di oggi, ma so che il vostro pubblico è un pubblico anche di specialisti, quindi sanno di che cosa sto parlando, la cosa strana è che per esempio c'erano, non so, 20 Space Invaders, perché la fila per giocare era tale per cui era impensabile che ci fosse solo un modello di ogni videogame. Quindi per dire, di quelli più popolari ce n'erano 20, 30 dentro la stessa sala giochi e tutti sempre occupati. Poi non so, c'erano tutta una serie di altri videogame, soprattutto dell'Atari, che per i primi anni è stata sicuramente la monopolista del settore, e anche questi esploravano le simulazioni più interessanti, più sportive, per esempio c'erano dei giochi di automobilismo, di altro genere, e poi appunto comparve il primo videogioco giapponese, cioè Space Invaders di Taito, e questo fu di nuovo una grande fascinazione, perché io ho capito in quel momento che il medium, il linguaggio e la tecnologia dei videogames sarebbe stata anche capace di raccontare cose, non solo di farle simulare. E quindi niente, insomma, da qui ho cominciato a pensare che avrei voluto scriverne, cioè che avrei voluto, intanto ho cominciato a collezionare Polaroid di tutti gli schermi di tutti i videogames che vedevo. E poi di ogni videogame aspettavo, perché i videogiochi quando non giocavano, l'ho scoperto, mandavano avanti un po' di schermi e gli ultimi schermi dicevano chi aveva fatto questo videogame. Cioè alla fine di questo specie di slideshow veniva fuori data di produzione, casa di produzione, paese di produzione, autori. È una miniera d'oro per un tipo come me, quindi fotografie, Polaroid e schede per ogni videogame con tutte queste caratteristiche. Quindi insomma il primo impulso è stato quello di produrli, è stato quello di scriverne, cioè di comunicare quello che avevo scoperto tra virgolette, su quello che avevo scoperto io per me, cioè quello che avevo capito per me, quanta potenzialità avessero non solo dal lato del divertimento, che era cosa certa, non solo dal lato del business, che pure era cosa certa, perché in quel periodo poi Atari andava a Wall Street, si quotava a Wall Street, qui ci intersechiamo con l'altra mia grande passione, cioè la finanza, gli investimenti, eccetera, soprattutto americani, e quindi il business stava diventando una cosa estremamente seria. Ecco, qui direi che ci possiamo mettere il primo puntino, perché il primo puntino è ho giocato, ho ricercato, sono stato affascinato e a questo punto voglio comunicarlo. Domanda interessante, quelle Polaroid dove sono finite poi? Sono tutte nella mia collezione ecco, personale. Un giorno pubblicarle, no? Sarebbe... sì. fa parte del mio mostruoso archivio di tutto. Io sono un archivista nato, ho una documentazione enorme per tutto quello che sono le cose che mi interessano, che poi tante volte, per esempio quando ho organizzato il Future Show nel 1996, adesso faccio un salto quantico di 18 anni, ci sarebbe la domanda apposita di quello, Roberto, giusto? Magari gliela facciamo dire dopo. Ah, va bene, va bene. No, perché come anticipo solo che nell'occasione pensai a realizzare un museo dei videogiochi, perché cioè, io mi ricordo da subito ci ho avuto questa idea, no, di studio, di analisi, di insomma di capire. Sei stato fra i primi a trattare argomenti videoludici sulle riviste italiane come Computer Games, Micro Personal Computer, Rockstar, Panorama Espresso e per molti anni la famosa rubrica dedicata ai videogiochi di MC Microcomputer, Play World, oltre che in TV per la Rai. Cosa puoi raccontarci di queste molte e lunghe esperienze? Posso raccontarvi questo fatto che l'editoria scoprì che i videogiochi erano un argomento che interessava moltissimo. Quindi paradossalmente, mentre alla fine degli anni 70 nessuno se ne occupava, poi invece all'inizio degli anni 80 parte un enorme interesse di vario tipo, cioè da una parte soprattutto di tipo, diciamo così, applicativo, no? Pratico, cioè la soluzione, come si risolve un videogame, come si gioca un videogame, come si entra in un videogame, queste robe qui, e dall'altra quello di tipo più, no, più un pochino più pensoso, quindi che cos'è sto videogioco, perché funziona così, perché non funziona così, e anche di tipo culturale, no? Cioè io ho pensato che la formula più intelligente, più utile potesse essere quella della recensione, cioè esattamente come si faceva, io già facevo su Rockstar, che era all'epoca una rivista molto popolare di musica, come si faceva per i dischi o per i film, no? E quindi ho cominciato a recensire videogames su in una rubrica che avevo su Rockstar, quella è stata la prima in assoluto, ed è uscita direi in contemporanea con il primo numero di videogiochi, la rivista italiana, la prima rivista italiana di videogiochi, fatta da Riccardo Albini, che è un altro dei pionieri, credo, della cosa. Quindi niente, ho cominciato a scrivere su Rockstar, ma poi ho continuato, perché nel frattempo sono uscite dozzine di riviste di videogiochi di tutti gli editori, anche quelli più importanti, quindi ho cominciato a collaborare con tutti, dormito molto poco all'inizio degli anni 80, perché nel frattempo studiavo all'università, e quindi scrivevo la mattina sera. Tenete presente che a quei tempi scrivere significava sbattere i tasti di una macchina per scrivere, e significava poi, una volta dove aveva scritto, procurarsi qualcosa che illustrasse la scrittura, quindi fare le foto degli schermi, che oggi sembrerà incredibile, ma venivano tutti con una riga diagonale, e quindi è stato necessario più di tutto risolvere, capire il motivo per cui gli schermi dei videogiochi non si riuscissero a fotografare in modo efficace. Poi si è scoperto che era solo una questione di timing della macchina fotografica. E quindi le riviste che avete citato sono alcune di quelle a cui ho collaborato. La RAI è stata coinvolta già subito nei primi anni 80, due trasmissioni, una si chiamava Obladio Bladà ed era addirittura in prime time su Rai 1, cosa oggi inimmaginabile, per quella trasmissione che era presentata da Serena Dandini, cioè è stato il primo programma televisivo di Serena Dandini. Feci tre cose: i microclips, cioè all'epoca era di gran moda il videoclip, cioè il MTV, no? Aveva fatto diventare popolarissimo il videoclip, cioè un breve filmato che rappresentasse anche una canzone. Allora io ho pensato ai microclips, cioè un montaggio di videogiochi che raccontasse una storia. E ne ho fatti una ventina, penso, che sono nelle teche Rai, anzi mi piacerebbe averli, perché non sono mai riuscito a farmi dare come copia. Poi feci un film, la sceneggiatura di un film sugli hackers, un cortometraggio naturalmente, sugli hackers, Play World su MC Microcomputer, che partì con quattro pagine, poi c'è tutto nella 16 o una cosa del genere, o comunque tantissime, è diventata un'impresa enorme dal punto di vista produttivo per me. E poi una trasmissione che si chiama Video Games Weekend, che è andata in onda su Rai 2, in cui io anche in video in quel caso, e facevo dei corpo a corpo con i videogiochi. Mi piaceva questa idea proprio del corpo a corpo, quindi sceglievo dei videogiochi che fossero particolarmente simulativi, cioè che avessero degli aspetti di interazione molto forti. Tenete presente che usavo l'Amiga come macchina, perché era quella esteticamente più bella da vedere, no? In televisione. E quindi, non so, per esempio, lottavo con la tigre di un videogioco di circo che cercava di mangiarmi, oppure cercavo di evitare il poliziotto che voleva mettermi la multa in test drive. Insomma, facevo cose di questo tipo, perché mi piaceva l'idea di rendere a chi non aveva ancora capito cos'era l'interazione, e che in televisione non lo poteva capire perché non si poteva interagire, volevo fargli percepire come le cose che loro stavano vedendo succedevano perché io facevo delle cose. Oggi può sembrare naturalmente qualcosa di incredibilmente tautologico, banale, ma all'epoca vi garantisco che era il problema numero uno di un divulgatore, perché o il divulgatore voleva rimanere tra gli esperti, tra i giocatori, oppure doveva inventarsi dei modi per far capire come funzionava il linguaggio, come funzionava il mezzo. E quindi questo è quello che è. A questo punto, collezionando videogiochi, raccogliendo videogiochi di tutti i tipi, mi capitavano anche quelli piratati ovviamente, e avevano alcuni di questi. In Italia non è che avevi molta possibilità. No, per fortuna come giornalista io avevo moltissime fonti che mi mandavano videogiochi. Sì, eri uno dei, diciamo, dei privilegiati. Sì, perché mi mandavano tonnellate di videogiochi, certo, dalle varie case per fare le recensioni, no? Quindi, certo, per parlare di videogiochi. Niente, quindi mi aspettavo che qualcuno si decidesse a fare videogiochi italiani. Sì, però, piccolo passo indietro, se vuoi. Da lettore anche di MC Microcomputer, che è stata a lungo la rivista più venduta in ambito informatico del paese. Ah, direi. E alcuni erano i numeri di MC, quelli tra l'86 88, 89, 90 erano grandi come le pagine gialle, cioè erano delle ricordo, cose che se te li danno in testa ammazzavano. Ricordo esatto. Bene. Assolutamente, ha raccolto molte firme, poi rimaste comunque famose in diversi settori, e ha trattato l'informatica in ambito tecnico, di cultura e costume, ricordiamo giochi matematici, fantascienza, tema computer, videogiochi appunto e altre cose. So che in realtà non tutti vi vedevate spesso di persona a Roma. Come funzionava la redazione di questa rivista? Ma guarda, le riviste, i giornali si sono sempre fatti in questo modo, c'è sempre stato un nucleo redazionale, normalmente dipendenti, quindi della casa editrice, che erano loro stessi, si chiamavano la cucina editoriale, no? Cioè, poi nugoli di collaboratori più o meno importanti, più o meno utilizzati, che lavoravano invece da casa loro. Il giornalista è da sempre un lavoro smart working, è stato uno dei primi lavori, penso, smart working. Vuoi perché è inviato da qualche parte a fare il suo lavoro, quindi non può stare in redazione, no? Se fa l'inviato, vuoi perché è corrispondente da qualche altra parte e quindi fa il suo lavoro dall'ufficio di corrispondenza, vuoi perché è un freelance e lavora a casa sua, no? E tuttora viene fatto così, non è, da questo punto di vista non è cambiato granché, cioè. Ovviamente si tenevano una serie di riunioni relazionali così di tipo strategico di tanto in tanto, ma più che altro si facevano incontri a due, tipo io ho incontrato decine di volte Marco Marinacci, che è il direttore responsabile, direttore di NC, era anche uno dei soci dei tre soci di Tecnimedia, cioè la casa editrice, che oltre a NC pubblicava pure riviste di audio, di video, di orologi a un certo punto, insomma varie altre cose. Però la vera killer application della casa editrice era NC Computer, perché quei volumi così giganteschi contenevano tantissima pubblicità che ovviamente serviva a rendere la rivista un vero business. Contemporaneamente però era anche una rivista di alta qualità, tanto è vero che appunto era di gran lunga la più venduta, perché faceva un lavoro di informazione ma anche un lavoro di alfabetizzazione informatica. Tenete presente che, voi lo sapete bene, che i computer costavano una cifra fuori dalla portata di molti ragazzi, di molti giovani. Mi pare, adesso vado a memoria, che correggetemi se sbaglio, ma il Commodore 64, che è stato probabilmente il vero responsabile dell'alfabetizzazione informatica italiana, costava con il registratore a cassette qualcosa come 500.000 lire, 500-550.000 lire, possibile? In realtà all'inizio costava anche di più. Anche di più. Parlo con registratore a cassette. Con registratore a cassette, sì, all'inizio di più, poi è sceso, è andato intorno alle 500.000 lire, comunque era abbastanza costoso. 500.000 lire, col SOP spendevi più di un milione di lire con 500.000. Milioni di lire attualizzato, stiamo parlando di cose che probabilmente somiglierebbero ai 5-6.000 euro. Ah, io tra l'altro divento giornalista con tesserino, cioè vero giornalista, già dall'88. E quindi non solo mi regalano i videogiochi, ma mi regalano i computer per i videogiochi, cosa assai più importante. E quindi ho tutte le macchine in casa, ho MSX normale, MSX2, Commodore 64, Amiga, PCBM, l'Apple 2. Sono in una condizione di grande privilegio a quei tempi, quindi posso scrivere, provare, fare, disfare, perché ho le macchine. Mentre le persone, diciamo, normali, dovevano ricorrere alle riviste, cioè era un po' come un surrogato a portata di mano di quell'oggetto del desiderio che non potevi avere, computer, software, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è stato un ruolo molto importante quello di MC, e io ho cercato di giocare un ruolo che all'epoca non era per niente semplice. Marco Marinacci è stata una persona molto, molto illuminata, perché lui è stato uno dei primi a capire che i videogiochi avevano un ruolo importantissimo nello sviluppo dell'informatica, perché c'erano proprio due partiti, quello dell'informatica seria e quello dell'informatica ludica, ma non si chiamava così, si chiamava l'informatica dei perditempo, quella di quelli che vogliono degli smanettoni, si usava questo termine così abbastanza dispregiativo. Invece MC ha capito molto bene come funzionava, cioè funzionava che i videogiochi erano un traino importantissimo per la vendita dei computer. Assolutamente. MC ha molto ben interpretato questa, tutti questi bisogni, e sono stati pionieri in tante cose, perché lo sono stati anche per esempio nella creazione di una BBS, di un bulletin board system, cioè un tesignano di, proprietaria MC Link, che per molti di noi ha significato il primo modo di andare online, come si direbbe oggi. Assolutamente sì. E veniamo alla Simulmondo, Francesco. Ecco. Come nacquero l'idea innanzitutto e il nome? Allora, io ovviamente, avendo anche il polso della situazione di quello che succedeva dietro le quinte, come giornalista, no? Io ho sempre avuto anche una vena imprenditoriale, le mie vene sono queste qui, sono quelle che vi sto raccontando, quindi produttore di cose creative, diciamo, mi piacciono le cose che mi piace fruirle, mi piace pensarle, ho fatto tante cose in questi mondi, in questi anni. E allora ho detto, beh, senti, qua mi sono stufato di aspettare. Ho capito che comunque avere una conoscenza forte da un punto di vista proprio della storia, dei media, del linguaggio, eccetera, avere una competenza di imprenditore, c'è presente che stiamo parlando di uno che si stava per laureare, che aveva 25-26 anni, quindi nell'87 decido di utilizzare MC Microcomputer per fare una ricerca, per vedere se c'erano potenziali collaboratori per realizzare videogiochi. Torno un secondo indietro, la parola Simulmondo, quella mi è venuta in mente molto prima, già nel 1983, una notte in un albergo a Londra, tra l'altro un grattacielo altissimo, da parte di Gloucester Road, mi ricordo bene pure dove era. Ero alla ricerca di una parola che condensasse le mie idee sui videogiochi, cioè che i videogiochi fossero cose, esperienze simulate che replicavano appunto condizioni reali o anche non reali, irreali, ma di fiction, ma con l'immersione, eccetera, eccetera. E mi viene in mente Simulmondo. Per parecchie ragioni Simulmondo mi piaceva, a parte che mi piace il suono, mi piace la parola. Poi mi piace il fatto che più o meno si dica allo stesso modo quasi tutte le lingue neolatine, no? Cioè, Simulmondo si dice uguale in spagnolo. La parola simul sia tra l'altro comune anche a quelle non neolatine, quindi anche in inglese si dice simulation, no? Insomma, mi piaceva questa parola e me la sono tenuta lì nel cassetto in attesa di... E la usavo moltissimo su Playworld già dal 1985, perché il mio primo, ancora prima sulle altre riviste, ma dal 1985 cominciò la mia collaborazione in Playworld, eccetera eccetera, e con ossessività cerco di sottolineare sempre termini come interattivo, simulato, simulmondo, simulazione, interazione, perché ero fissato, lo sono tuttora, che quelli fossero due dei cardini di questa, no, di questo mondo, di questa soluzione. Niente, quindi faccio a questo punto questa ricerca su MC pubblicando più volte un riquadro. Mi faccio disegnare una bozza del marchio da Massimo Iosaghini, un grande designer italiano che all'epoca era un bravo, era tra l'altro lo scenografo di Obladi Blada, ma era prima di tutto un mio amico di Bologna, e poi dopo ha fatto cose importantissime, tipo i negozi della Ferrari nel mondo, le metropolitane di tedesche, alcune metropolitane tedesche, adesso di recente ha fatto il sistema di mobilità che porta dall'aeroporto di Bologna al centro di Bologna, che si chiama People's Mover, ecco come si chiama, People Mover. Vabbè, sono un designer piuttosto noto, gli faccio fare una bozza, gli dico: guarda, mi piacerebbe avere una roba tipo due ellissi e un mondo in mezzo, poi una scritta di tipo futuristico ma del modernismo italiano degli anni 30, quindi futuristica ma passata, cioè dei futuristi quelli di Marinetti, di Boccioni, di Balla e quelli lì, cioè i veri futuristi, la scritta Simone. Dopodiché me la faccio pure rifare al computer con l'Amiga, quindi, e di queste robe esistono su internet le prove a tutto spiano, e ci sono, cioè sono tutti i loghi, tutta la storia del logo di Simon Mondo. Se voi scrivete Simon Mondo logo su Google e cliccate immagini, vedete tutta l'evoluzione del marchio. Chiusa la parentesi, quindi insomma espleto questa parte, diciamo così, di recruitment, come si direbbe oggi, no? Di recruitment. Quindi niente, mi metto in attesa di informazioni, di sapere quanti grafici, quanti musicisti, quanti programmatori, quanti potenziali collaboratori e di che qualità ci fossero in circolazione. Fortunatamente ce n'erano abbastanza, non posso dire di aver avuto un diluvio di candidature, però un certo quantitativo di candidature sì, soprattutto del mondo 8-bit. Perché? Perché erano tutti giovanissimi e non avevano i soldi per comprare computer ben più costosi come quelli 16-bit. Quindi contatto questi qui, quelli che, perché avevo chiesto anche di mandare delle prove della loro qualità, ovviamente, della grafica, audio, programmatoria, eccetera, eccetera. Insomma, contatto quelli che mi sembravano più significativi e comincio a fare i miei ragionamenti di imprenditore oltre che di produttore. E dopodiché cerco di capire com'era la situazione anche imprenditoriale, distributiva, insomma, a quei tempi non è che t'alzavi e mettevi un website e aspettavi che qualcuno ti ordinasse le cose, cioè funzionava in maniera molto più analogica la vicenda. Quindi siamo alla fine dell'86, poi nell'87 decido che si può fare e quindi fondo Simon Mondo e Simon Mondo SRL, che inizialmente ha sede a casa mia, cioè nella mia casa di proprietà di Bologna, dove studiavo e dove facevo giornalista, insomma, dove succedevano tutte le cose che vi ho raccontato fin qua. Inizialmente nella SRL coinvolgo in una partecipazione piccola il figlio di quello che produceva cassette per il Commodore 64 essenzialmente, che aveva una rete di vendita, aveva degli agenti, perché servivano gli agenti per vendere i videogiochi. Dopodiché, una volta dopo averli prodotti, poi bisognava venderli e quindi ci volevano delle persone introdotte nel settore di... All'epoca i videogiochi si vendevano essenzialmente nei negozi di elettrodomestici, nei pochi negozi di computer in quanto tali, insomma si vendevano questo tipo. Poi si vendevano in edicola, ma in edicola si vendevano quelli piratati, cioè si vendevano compilation di videogiochi sprotetti e piratati e assemblati, riviste che probabilmente voi ricorderete, pseudo riviste, si chiamavano LOD, RUN, c'erano nomi, Super Games, Games, adesso non ho. Ecco, quindi la piccola partecipazione doveva servire, come dire, a coinvolgere un rappresentante della sezione distributiva, del mondo distributivo. Con questa famiglia avevo già avuto a che fare, perché mi avevano contattato per aiutarli a uscire dal mondo della pirateria, perché questi facevano dei videogiochi piratati e li vendevano però non in edicola ma nei negozi, e con un marchio molto noto all'epoca che si chiamava Armati. questi qui mi avevano chiesto di aiutarli a riconvertire. Io avevo moltissime conoscenze, soprattutto in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, di produttori, no, di case di produzione. Quindi mi chiesero di dargli una mano a presentargli questi qui per uscire dalla pirateria e entrare nella legalità, diciamo così. Io francamente ho pensato che potesse essere un'ottima idea, perché mi sembrava di fare un'opera, come devo dire, di culturalmente valida. Naturalmente io glielo dicevo, questi qui erano produttori di videogiochi piratati, eccetera, eccetera, che però volevano, che avrebbero naturalmente fatto un marchio nuovo. Sto marchio nuovo si doveva chiamare Italvideo, che poi non so se hanno usato mai per davvero, poco, molto, non so. Quindi, proprio per evitare che c'entrasse minimamente in Simon Mondo il proprietario dell'Armati, io feci l'accordo con il figlio dell'Armati e con questa Italvideo, non con l'Armati. Nel frattempo cercavo di... Poi questa collaborazione si interruppe perché la promessa che mi aveva fatto, che i videogiochi piratati li avrebbe abbandonati in tempi molto rapidi, non si realizzava mai, e quindi io non potevo avere a che fare. E per la stessa ragione, nel giro di pochissimi mesi, mi ricomprai la mia quota di... dal figlio di Ariotti, si chiamava poi questo signore qui, Riccardo Ariotti era il figlio, e da lui mi ricomprai le mie quote della SRL. E quindi questo è interessante. Quindi tu te ne andassi perché loro non abbandonarono quello che facevano, cioè fare la... Sì, cioè la quindi non ti davano neanche garanzia che non piratassero i tuoi. La transizione che mi avevano promesso si realizzava, diciamo così, per usare un eufemismo, con molta lentezza. Ecco, posso anche capirne le ragioni. Poi da lì cominciarono anche un sacco di cause con intanto un inglese che si era messo a importare videogiochi originali, cioè John Holder della Mastertronic, che poi sarebbe diventata la Leader, sì. Quindi uno dei più importanti poi distributori di videogiochi. Cominciarono a fare causa a questo Ariotti. Insomma, nacque tutto un parapiglia che io dissi: a me non vedo cosa me ne possa interessare di queste vicende qui. E quindi la mia vocazione, un po' da samaritano che voleva convertire i pirati in fu abbandonata, e quindi mi ricomprai le mie quote. Questo avvenne tutto nel giro di pochissimi mesi, perché non è che aspettavo chissà quanto tempo per capire se avevo funzionato, anche perché poi durante uno dei viaggi a Londra per parlare con i produttori che dovevano dare i diritti per fare i videogiochi originali, bla bla bla, loro mi avevano garantito che avevano smesso di produrli. Durante una di queste riunioni, mi ricordo alla Mirrorsoft, mi ricordo perfettamente anche la dove accadde. Mirrorsoft era la versione videogiochi di una grande casa editrice inglese, appunto la Mirror, quella di Handicap, tanto per dire uno, del Mirror, no? Quindi una potenza. Insomma, questi qua mi tirano fuori una bella accumuletto di videogiochi piratati, di loro videogiochi piratati da Armati. Qui capii che insomma la cosa non era più per me interessante, quindi insomma finì questa collaborazione. E nel frattempo si svilupparono i primi videogiochi di Simon Mondo, cioè Bowls, cioè un simulatore di bocce. Perché un simulatore di bocce? Se ve lo dico, voi ascoltatori e voi Carlo e Roberto non ci crederete, perché il primo film, il primo corto dei fratelli Lumière fu una partita di bocce, fu la ripresa di una partita di bocce. Allora, siccome situazione io cinematografica, era un soggetto così, cioè sono tuttora un soggetto così, volevo fare questo aggancio, cioè volevo che il primo gioco di Simon Mondo fosse avesse questa valenza culturale, diciamo così, di ripresa del primo spezzone di un film. Di i primi spezzoni di Lumière sono l'arrivo del treno alla stazione, che è bellissimo perché sembra che il treno ti arrivi addosso, e la partita di bocce, e poi mi ricordo che altro c'era. Insomma, fumo proiettati nel primo a sala in cui i Lumière fecero la prima dimostrazione, no, del cinema. Quindi il primo è questo, bocce. Il secondo è mini golf, usciti insieme tutti e tre, e il terzo è un calcio. un simulatore di calcio, quindi sono tre simulatori sportivi, diciamo così. Bocce è anche uno sport, cioè sono i campionati del mondo, quant'altro. Il mini golf invece è chiaramente, questo l'abbiamo inventato Mariccione, Marini, non so, io l'ho visto la prima volta nella mia vita sulla costa Adriatica. E il terzo, Italia 90 Soccer, perché noi avevamo vinto i mondiali del 90, quindi l'Italia doveva ospitare i mondiali nel 90 e nell'88 esce il calcio nostro, in due anni avanti. E calcio esce per Commodore 64 e Amiga e poi anche per PC. Mini golf esce per Commodore 64, bocce esce per Commodore 64 e Amiga. Questo cito a memoria, tenete presente che noi abbiamo fatto da una pippa un'altra 250 tiri, una roba del genere, tra le varie versioni intendo, quindi insomma non magari poi andiamo a controllare insieme, però così a memoria mi sembra che sia così. Questi tre videogiochi, tra l'altro con una confezione rivoluzionaria, e mentre i videogiochi che circolavano in Italia della confezione se ne strafregavano altamente, erano ripilanti cassettini, cassettotte con confezioni più o meno improvvisate, noi qui facemmo invece dei videogiochi confezionati in scatole grandi, belle, doppie, con la busta sopra. La confezione era questa qui, che era una confezione assolutamente deluxe per l'epoca di cui stiamo parlando. Infatti se tu fai scorrere la busta, ecco, vedi, è fatta di due pezzi, anzi tre pezzi, perché c'ha la busta, poi c'ha la scatola, primo si apre, dentro c'è la cassetta, il manuale, la cartolina di garanzia col questionario, altro tocco, ecco. Che tu devi compilare se vuoi la garanzia. Quindi noi abbiamo anche creato un database di consumatori che ci mandavano indietro queste cartoline, eccetera. Quindi niente, nasce Simo Mondo, quelle scatole ci sono molto affezionato, secondo me sono veramente molto carine per l'epoca. Sì, erano simili a quelle internazionali che producevano. Sì, erano simili soprattutto a quelle più belle americane. Perché sì, quelle europee erano tutte bruttine, porte in quell'epoca. Gli americani sono stati i primi a capire che le confezioni, del resto i geni del marketing sono americani, quindi non ci stupisce. Insomma, l'operazione fu pensata a lungo, meditata, si beneficiava della mia lunga esperienza di giocatore, l'ho raccontata, e di giornalista, divulgatore, no? Quindi insomma io di videogiochi ne avevo visti tanti, ne avevo giocati, ne avevo visti come confezione, ne avevo visti da tanti punti di vista, no? Ne conoscevo le vendite, sapevo cosa che vendeva di più, che cosa vendeva di meno, sapevo perfettamente che Bocce avrebbe venduto meno del calcio, mi era perfettamente noto, però volevo fare anche questa cosa strana che vi ho raccontato prima. Comunque posso dirvi questo, che nessun videogioco dei primi tre perse dei soldi, e naturalmente Italia 90 Soccer ne guadagnò molti e permise sia la versione Commodore 64 cassetta e disco che quella Amiga, fecero molti soldi e quindi furono sicuramente un grosso viatico per mettere in cantiere i prossimi videogiochi successivi. Naturalmente questo attirò, io avevo tanti amici ovviamente nei media, anche quelli non specialistici, perché nel frattempo avevo avuto anche una rubrica su Panorama videogiochi. Tenete presente che all'epoca Panorama vendeva 500.000 copie alla settimana, cioè era il news magazine, con Panorama e l'Espresso vendevano centinaia di migliaia di copie, cioè si parlano di cose che se uscivano su Panorama o sull'Espresso le vedevano tutti quella settimana. Quindi uscirono articoli su Simo Mondo, sulla nascita della prima casa di videogiochi propriamente detta, insomma quasi produzione con un certo tipo di idee in testa. Trovate tutto su internet, cioè l'articolo dell'Espresso con la visita alla sede, che nel frattempo avevo spostato in via Alberti Pisciatti, in una sede vera e propria a Bologna, vicino all'università, proprio vicino a Porta Zamboni. Questo strategicamente, perché a Bologna c'erano tanti informatici della facoltà di informatica, ingegneria informatica, eccetera. Quindi insomma, Bologna è sempre stato un hub, no? Tu potevi trovare a Bologna collaboratori che non fossero necessariamente bolognesi. Io vivevo a Bologna dall'80, quindi mi era sembrata la scelta più logica. In effetti funziona molto bene. Quindi poi naturalmente cominciai a creare una struttura interna e una struttura esterna, una struttura interna di persone che lavoravano in house e una struttura esterna di persone che collaboravano a vario titolo per varie ragioni alla produzione di videogiochi. E quindi cominciano a uscire periodicamente tanti titoli, tra cui F1 Manager subito dopo e poi altri. Certo, adesso volevo chiederti, adesso sposto una domanda più avanti perché forse ha più senso. Vogliamo ricordare iPlay 3D Soccer, Mille Miglia, Basket Mio, vabbè, Calcio Mio in parte ne abbiamo parlato, sì. Però alcuni di questi hanno delle grosse innovazioni, sì. Mi viene in mente soprattutto iPlay 3D Soccer per alcuni aspetti e anche Mille Miglia. Come sono nate questi giochi, queste innovazioni? Com'era questo processo che ti ha reso così innovativo in questo campo? Guarda, la ragione è semplice. Io volevo produrre dei videogiochi che avessero un impatto. Cioè, volevo produrre dei videogiochi che fossero diversi. Fare videogiochi come quelli americani, come quelli o simili a quelli americani, o simili a quelli giapponesi, o simili a quelli inglesi, non aveva francesi, non aveva nessun senso, perché non avrebbero avuto impatto. Bisognava trovare una chiave italiana che contemporaneamente comprendesse forti caratteristiche di innovazione. Quindi Simulmondo ebbe grande successo fin dall'inizio, perché prima di tutto perché dialogava in modo preciso e strutturato con i consumatori italiani, cioè testo in italiano sullo schermo, testi italiani nei manuali, l'italiano come centro della comunicazione, la lingua italiana come centro della comunicazione. Tenete presente che in un videogioco la lingua conta, perché tante cose si capiscono se capisci quello che leggi sullo schermo, se no, soprattutto in questi videogiochi di cui stiamo parlando, quegli anni 80. Poi però volevo utilizzare sport fortemente italiani. I due sport più fortemente italiani sono il calcio e la Formula 1. Il calcio non sto a spiegare perché, e la Formula 1 perché la protagonista della Formula 1 è sempre stata la Ferrari, quindi la casa. Allora, nel calcio volevo dire qualcosa di nuovo, volevo dire qualcosa che non fosse già stato detto, e mi venne in mente che volevo realizzare due cose fondamentalmente: il fatto di avere uno sguardo, una vista, un punto di vista da calciatore, quindi una specie di soggettiva, diciamo così. Questa è la prima caratteristica. Secondo, volevo che uno giocando a un calcio simulato, ad iPlay 3D Soccer in questo caso, avesse la sensazione di giocare a calcio, non di giocare a un videogame che trattava di calcio. Questa era la differenza fondamentale. Simulmondo si chiama così perché cercava di dare anche delle esperienze, non solamente del divertimento. Quindi al prete di socio penso che sia riuscito in questa operazione, cioè di sbalordimento un po', no? Cioè di dire: ma che cavolo è questo affare qui inizialmente? Poi però di avere di non perdersi, perché la bussola con la quale tu ti puoi ritrovare è che stai giocando a calcio. Quindi siccome sai come si gioca a calcio, conosci le regole del calcio, stare in soggettiva nel calcio non è poi così difficile per te, perché hai capito, perché sai di cosa stai Infatti ebbe un grande successo anche, anche all'estero, ed è stato il nostro primo nostro successo forte all'estero, in Inghilterra in particolare, nei paesi calciofili in generale. E tra l'altro è stato anche il momento in cui ho capito che certe tecnologie potevano poi essere utilizzate anche per altri fini. Infatti poi il motore di Ready Soccer diventa i primi tentativi di VAR, li chiameremo oggi, di moviola virtuale, che poi svilupperò con la Rai, con Rai 2, con il compianto Giancarlo De Laurentiis. Mille Miglia nasce per un'idea simile, cioè di nuovo Italia, di nuovo dire qualcosa di diverso sulle corse, che erano da sempre uno degli argomenti principe di videogames. E che cosa potevo dire di più italiano di avere i diritti della corsa italiana più famosa del mondo, cioè la Mille Miglia, corsa su strada naturalmente. E quindi dall'Automobile Club di Brescia, che scoprì aveva i diritti che organizzava la Mille Miglia, quella storica, la ricostruzione storica, quella che si fa adesso, e però che in passato aveva organizzato quella ufficiale, cioè quella degli anni 30, quella con Nuvolari e questi personaggi qua. Faccio un accordo con loro per licenziare i diritti e realizziamo al secondo mondo un bel Mille Miglia, secondo me un gran bel game, con una bellissima scatola che adoro tuttora, considero probabilmente la più bella scatola che abbiamo fatto in tutta la più bella confezione dei videogiochi in un mondo. Mille Miglia che nasce in versione con 64 Amiga e PC stavolta, il PC nel frattempo è diventato una cosa seria e c'ha la scheda VGA, però qua siamo già nel 1991 con i Play, 90-91 con i Play 3 di Soccer, e l'anno dopo con Mille Miglia. E veniamo ai giochi di edicola, quindi parliamo chiaramente di Dylan Dog, Tex, Diabolic, Simulman. Perché pensasti a questo tipo di distribuzione? Esatto, certo. E come fu questa esperienza? A questo punto io mi accorgo che le cose vanno molto bene, l'azienda funziona molto bene, Simulmondo ormai è considerato un player chiave in Italia e sta muovendo dei buoni passi anche fuori d'Italia. Noi abbiamo fatto videogiochi nei paesi slavi, in Israele, in Spagna, in Grecia, in Inghilterra, in Scandinavia, insomma abbiamo pubblicato games un po' dappertutto, quindi insomma il mondo si muove molto bene, viene percepita come anche come il punto di riferimento dei paesi stranieri per l'Italia, però penso che la distribuzione per computer e il formato, la distribuzione dei negozi per computer e il formato giochi da negozio mi sta stretto. La pirateria rompe le balle molto e noi diventiamo anche bravissimi a fare protezioni. Alcune sono passate alla storia, tipo in Play 3 di Soccer, che i giocatori in una partita nascosta, cioè perché poi è complicato andarsi a trovare in quale partita succedeva durante il campionato, eccetera. Durante il campionato i giocatori si dispongono, non rispondono più ai comandi del giocatore della copia piratata e si dispongono sul campo da gioco disegnando la frase fuck off al hacker. Questa cosa era meglio se non me la inventavo, perché gli hackers da come in avanti ci hanno preso ancora più di mira di quello che facevano già per conto loro. Però insomma è una soddisfazione che da produttore mi veniva voglia di prendere. Quindi mi sta stretto il negozio, mi sta stretto il modo di produrre e distribuire nei soli negozi, mi sta stretto il prezzo, prezzi molto alti dei videogiochi che erano necessari per compensare la pirateria, evidentemente, no? A questo punto penso, ma qual è il canale di vendita che ho frequentato fin da bambino che ho sempre adorato, che aveva tutte le novità dei fumetti, delle cose che mi piacevano, delle riviste, delle riviste tecniche, l'edicola, Flash, lampadina. Dico, beh, ma qui allora si possono fare dei giochi da mettere in edicola, pensati apposta per l'edicola. Altro Flash, qual è? Quali sono i personaggi che tutti conoscono in edicola? Quelli che fanno l'edicola, quelli dei fumetti più importanti, più famosi, quindi l'aggancio era semplice. Chi li fa? Io ho sempre fatto così, no? Quel Mille Miglia, voglio fare Mille Miglia. Chi fa? Chi c'ha i diritti? C'è l'automobilcar di Brescia, prendo la macchinina da Brescia, parlo con questi qui, cioè, non ho sempre fatto così, non ci ho trovato mai niente di strano. Quando volevo scrivere di videogiochi su Panorama, io ho fatto una cosa banalissima, ho alzato il telefono, ho chiamato il centralino di Mondadori a Segrate. Pronto, sono su Scriverla, sono uno che scrive di videogiochi da tempo, potete passare chi si occupa delle rubriche? E ti passavano il redattore, tu gli parlavi e gli dici va bene, faccio pure la rubrica, semplice. Solo che la gente non lo faceva perché non aveva un po' la competenza, non aveva un po' la forse anche un po' la mia faccia tosta, se vogliamo, non lo so. Insomma, comunque io lo facevo perché ho sempre odiato gli intermediari. Era un disruptor già per conto mio. Quindi dico, chi li fa? Li fa la Bonelli, Tex, Grand Dog, che erano i primi due che volevo assolutamente. Tex per rapporti miei di storici, io continuo a comprare Tex tutti i mesi, più volte, perché Tex c'ha 5-6 uscite al mese. E Dylan Dog, che nel frattempo era un fenomeno di costume ormai, perché in quel momento vendeva 1 milione di copie al mese, cioè cose impensabili oggi nei fumetti, no? Quindi vado alla Bonelli e parlo con Sergio Bonelli e dico, vorrei fare i videogiochi di Tex e di Dylan Dog. Poi dico, why not? Facciamo i videogiochi di... Quindi mi mettono in contatto con Tiziano Sclavi per Dylan Dog e con Aurelio Galeppini, il primo disegnatore di Tex, autore della parte grafica di Tex, a Chiari. Ovviamente Tiziano ci aveva quei tempi 38, 37, una cosa così, anni, e io ne avevo, stiamo parlando del 92, quindi io a quei tempi avevo 30 anni e lui ne aveva 10 più di me, facciamo, ma forse anche meno, 7-8 così più di me. Quindi ci capiamo subito, ci troviamo benissimo e pianifichiamo il primo videogioco, che però è ancora un videogioco da negozio, di Dylan Dog e gli Uccisori. Gli piace talmente a Tiziano, piace dalla Commodore, che ci fa il Commodore Amiga per gli Uccisori. Cioè viene fatto uno scatolone, che chissà magari ancora qualcuno sa in giro, che potrebbe essere un reperto di retro gaming veramente, o retro informatica veramente potente. È molto richiesto dai collezionisti. E mi piacerebbe tanto vedere una foto. Si trova poco, ma quando si trova costa un sacco di soldi. Ok, questo scatolone era la scatola Civil Mondo dell'Amiga, una cosa veramente di Dylan Dog, una cosa Commodore italiana, produzione. Un onore veramente importante, cioè una cosa che si chiama in gergo bundling, che si fa solo con operazioni di marchi dello stesso livello, cioè nessun marchio importante accetta di essere collegato, comunque insomma abbinato ad un marchio. Quindi i tre marchi di questa operazione erano Commodore, che ai tempi era computer in Italia semplicemente, perché anche con 64 viene fatto in bundling. Esistono due versioni, esiste la versione scatolone Amiga, lo scatolone con 64, bundling con Commodore, Dylan Dog e Simul Mondo. Per me insomma è veramente un momento top, ecco. Quindi parte il primo gioco da negozio, anche quello di Tex, Piombo Caldo, sempre da negozio, e nel frattempo faccio anche l'accordo con la superstite delle sorelle Giussani, autrice di Diabolic, altro cult della mia infanzia, della mia adolescenza, e super fumetto anche esteticamente. questi editori sono così carini, così bravi da aiutarci in tutto, ci fanno i fumetti inediti, tutta roba che adesso i collezionisti si saccheggiano su eBay. Io ho tutte le tavole originali, i diritti di riproduzione, cioè ho del materiale veramente incandescente per i collezionisti. Perché Diabolik, per esempio, ognuno dei numeri ha un albetto inedito e Dylan Dog idem. Dylan Dog non tutti i numeri, ce l'ha un numero, quello da negozio, che ho visto che gira a 150 euro su eBay, un albetto di 16 pagine. Mi sa anche di più adesso. E poi ci sono questi qui bellissimi, questi tre albi dei primi tre avventure. Quindi insomma decido di fare dei videogiochi fatti apposta per l'edicola. Quindi i videogiochi devono avere tre caratteristiche. Una volta ottenuti i diritti per fare queste operazioni e il supporto assoluto anche per la pubblicità, per cioè tutta una serie di cose, loro comunicavano i videogiochi di Simon Mondo sui loro albi, stiamo parlando di milioni di copie, come dicevo prima, che sono cose molto interessanti, disposizione in edicola, quant'altro, tutto parlare con il distributore, pianifico questi videogiochi. Videogiochi che dovevano avere per me tre caratteristiche fondamentali, cioè uno, dovevano essere quelle che oggi si chiamerebbero delle serie, cioè non tanto per forza definiti dalla continuazione, quindi non tanto per forza episodio 1, episodio 2, episodio 3, no? Ma seriali nel senso di avere una periodicità, cioè tu sapere come per un fumetto che vai in edicola a comprarti un nuovo Diabolik, sapevi che andavi in edicola a comprarti un nuovo Dylan Dog Adventure di videogame di Simon Mondo. Quindi creiamo le prime due collane, Diabolik e Dylan Dog, e vengono lanciati e vendono moltissimo, vendono primi numeri, vendono veramente decine di migliaia di copie. E i distributori ingolositissimi, anche perché in edicola quei prezzi erano alti, mentre per me erano bassi. Cioè il primo prezzo delle Adventure fu 14.900 lire. 14.900 lire erano... Non mi ricordo esattamente quanto costasse Dylan Dog, ma sospetto costasse 300-400 lire, 500 no, lire. No, costava di più, però... Nel 93 costava già di più? Sì, nel 93 Dylan Dog era intorno al 1500, se non ricordo male, comunque... Devo tanto? Contare. Sì. Ah, vabbè, probabilmente io ricordo invece di ancora prima, negli anni 80, sì. Ma poi c'è stata inflazione, sì, i fumetti sono decollati di prezzo. Vabbè, comunque insomma stiamo parlando di 10 volte. Una frazione di del prezzo che avevi tu sicuramente, cioè molto molto meno. Cioè stiamo parlando di 10 volte, noi costavamo 10 volte, che per l'edicola era pazzesco, perché voleva dire che se tu vendevi 50.000 copie, o 20.000 copie, o 130.000 copie, è come se stessi vendendo di un fumetto 300.000 copie. Adesso attualizzato, no? Cioè rapportato con il prezzo giusto che dicevi tu prima di 1.500 lire o quello che è. Quindi erano numeri giant. Poi considerando anche che avevamo altre testate in cantiere, no? Cioè Simul Man, quello il mio, cioè il prodotto, il videogioco, l'agente della realtà virtuale, il detective della realtà virtuale che avevo nel frattempo concepito a San Francisco d'estate nel 93, e poi Tex, come ho detto prima, e poi comincio a pensare a delle altre ancora, cioè Spider-Man, che poi facciamo nel 94-5, e soprattutto la Diabolik. Diabolik all'inizio, Diabolik e Dylan sono i primi due. I Diabolik e Dylan ne facciamo tantissimi, adesso non mi ricordo in questo momento esattamente, ma direi 13 Diabolik e credo 15 di Landog, di cui 13 da edicola e 2 da negozio, perché c'è sia gli uccisori, che è un arcade adventure, e c'è Attraverso lo specchio, che è un point and click, cioè tipo Monkey Island, per dare un'idea della tipologia. Quindi ho una marea di titoli per Amiga e PC, e qualcuno anche per Commodore 64 ancora. Spider-Man, sì, come fai ad avere i diritti di Spider-Man? Ah, quella è una bella storia. Perché sempre con la solita logica dico, ma a questo punto voglio un prodotto che mi riesca a far uscire fuori dai confini, cioè da riprodurre l'operazione Nicole nel mondo, Stati Uniti soprattutto, dove l'idea era non si useranno le edicole perché loro le edicole per loro sono venditori di giornali puri, non, da noi sono bazar di un po' di tutto, ma nei Walmart, quella era l'idea. Supermercati. Sì, nei discount. Discount, sì, sì. Sì. Oh, quindi mi metto d'accordo con i miei amici americani, che qui abbiamo tanti, loro gli chiedo, ma voi con che cosa riuscireste a portarmi ovunque? Spider-Man. Allora io dico, beh, allora ci vuole un ragno, ci vuole Spider-Man. E parlo con il nome tutelare della Marvel in Italia, in Europa e poi forse nel mondo, cioè Marco Lupoi, che Marco amico, Marcello Lupoi, che è un mio amico e che conoscevo da un secolo, perché io ero collezionista, io ho tutta la collezione corno dell'Uomo Ragno, cioè la prima collezione, quella 200 e rotti numeri, e mi ricordavo di aver letto il suo nome in una, come bambino, lui è più piccolo di me, come bambino che scriveva alla rubrica della posta dell'Uomo Ragno. E dopo lui è diventato quello che ha riportato in Italia la Marvel dopo il periodo di oblio seguito alla fine della Corno, con Star Comics, poi dopo con Marvel Italia, insomma. Quindi era la persona giusta e francamente non facemmo nemmeno questa gran fatica, perché a quei tempi la Marvel non aveva altre richieste per fare videogiochi del Uomo Ragno. Potrà sembrare incredibile, ma era esattamente così. E quindi avemmo i diritti, tra l'altro, per l'Italia, la Spagna e altri paesi, in attesa di poter fare un accordo commerciale che ci aiutasse a fare poi l'operazione per gli Stati Uniti, cioè per avere i diritti per gli Stati Uniti. Ma questa è una storia molto più avanti, siamo già al 95 penso con Spider-Man. Prima di Spider-Man, contemporaneamente a Spider-Man, la Fabri Editori, ai tempi gigante insieme alla De Agostini delle dispense in edicola, proprietà della Rizzoli, la Fabri ci contatta per fare un'opera monster. Cioè, allora intanto volevamo comprarsi tutto, comprarsi Simul Mondo, comprarsi i magazzini di Hound Dog e i videogiochi, volevano assolutamente entrare nel settore. Poi dopodiché mi propongono invece, perché non facciamo una bella opera insieme, voi fate i videogiochi e noi li distribuiamo in tutto il mondo. E nasce così Time Runners, che è una saga in 30 episodi in 8 lingue. Quindi è il primo videogioco di Simul Mondo veramente distribuito worldwide dalle filiali di Fabre nel mondo. Quindi in Inghilterra, perché i collezionabili sono una genialata italiana, non so se voi lo sapete, ma le dispense sono una genialata italiana inventata da De Agostini e Fabri Editori per una ragione banale, simile alla mia, cioè gli italiani non avevano i soldi per comprare enciclopedia in un'unica soluzione nel dopoguerra, no? Quindi che fanno questi? Gli danno a rate in senso stretto, cioè gli danno un fascicolo alla volta, dopodiché a prezzo molto più ridotto ovviamente, dopodiché le persone se li devono collezionare e se li devono rilegare e si trovano in casa l'enciclopedia. Questa cosa qua, questa trovatona, incredibilmente non ce l'aveva avuto nessun altro a parte i due italiani, Fabri, i fratelli Fabri a Milano e De Agostini a Novara. E quindi questi qui avevano invaso il mondo delle loro pubblicazioni, cedendo poi i diritti, facendo accordi, negoziando coedizioni e cose di questo genere, quindi si ritrovavano con filiali ovunque. e quindi distribuivano Time Runners ovunque in queste otto lingue, eccetera. Infatti Time Runners poi c'ha i nomi, ogni titolo, ogni episodio ha il nome nella lingua di riferimento, quindi non è solo in italiano, c'è cioè inglese, francese, spagnolo, portoghese e bla bla bla, otto lingue. E quindi questa è una bella operazione che tra l'altro anticipata da una mega campagna televisiva pubblicitaria. Di queste cose invece ce le ho, le videocassette. Quale sarebbe bello mettere su YouTube magari, no? Prima o poi prima o poi lo faremo. E quindi insomma il mondo qui diventa mainstream, ecco. Se ne parla anche in Rai, eccetera eccetera, insomma passa la pubblicità, facciamo e questo mi crea il contatto, vedete da cosa nasce cosa, poi mi crea il contatto con la Rai, che già conoscevo per le ragioni che vi ho raccontato prima, di giornalista, programmi televisivi eccetera, però mi offre il contatto con la divisione ragazzi della Rai, che produceva, stava per produrre, avevano messo in cantiere un nuovo contenitore che durava tutto il pomeriggio su Rai 1, che si doveva chiamare Solletico. E qui comincia un'altra storia. Facendo un piccolissimo passo indietro, nel 1989 mi ero in contatto con molti intellettuali, per esempio Giampaolo Gossena, che è considerato tuttora uno dei grandi della storia dell'editoria sul gioco in Italia, non del gioco videogioco, di tutti i giochi, uno dei grandi esperti di tarocchi, di tutti i giochi popolari, ha scritto moltissimi libri bellissimi sui giochi, sulle modalità di gioco, quindi ha fatto un lavoro certosino di divulgazione, di archiviazione di tutti i modi in cui si è giocato nella storia d'Italia, praticamente, non solo d'Italia. Tutte cose che magari adesso sono andate anche perse, cioè che non si fanno più giochi con le carte, che non si fanno più giochi di strada, che non si fanno più. Allora, aveva questa grande passione, mi contattò e abbiamo fatto un mucchio di cose insieme, lui aveva rubriche su Repubblica, cioè su Linus, su altre riviste, e stava a Milano, e attraverso di lui e anche attraverso Massimo Iosaghini, di cui ho parlato prima, entro in contatto con Ettore Sossas, che è probabilmente il più famoso designer italiano del Novecento, quello che ha fatto, tra l'altro, vedete come si incrociano le cose, e anche il design dell'M24, cioè probabilmente dei più bel PC compatibili che abbiano mai realizzato, Olivetti M24, e il designer di tutte le più famose macchine da scrivere Olivetti, tipo la Valentine, che è al museo, al MoMA a New York, ecco, giusto per dirvi della caratura del personaggio, insomma. Questa Ettore stava realizzando aveva pensato una bellissima rivista di design Terrazzo, che però Worldwide, pubblicata a New York, so se aveva rapporti e collezionisti eccetera ovunque, era stato anche l'inventore della collezione di Design Memphis, insomma parliamo di un personaggio leggendario, a quei tempi aveva già 75 anni, ecco, giusto per darvi un'idea. Voleva fare questa rivista che si chiama Terrazzo, voleva parlare di design, ma anche di design nelle cose strane, non solo design delle macchine, design delle automobili, design dei treni, ma anche design dei fumetti, design delle confezioni dei prodotti, cose di questo genere. E mi chiese un articolo sul design nei videogames. Quindi come i creatori di videogiochi avevano affrontato il problema del design, no? Design da tanti punti di vista, cioè design di quello che si vedeva, design di come funzionava. Design è una parola molto polifunzionale, vuol dire tante cose, no? In America il designer è l'architetto di, cioè quello che fa, per dire, quello che fa i vestiti, in America si chiama designer, da noi si chiama stilista, no? In America si chiama designer. questo articolo che faccio è l'occasione per parlare di Simul Mondo, per parlare delle mie idee sulla simulazione, per parlare, usare l'espressione interactive design, insomma per fare tutta una serie di cose di cui sono molto contento. Poi riprese da Domus, che era la rivista più importante di architettura e design in Italia. Questo per dire che cosa? Per dire sempre che io ho cercato di mantenere continuamente saldi i 3-4 come dire, le 3-4 bussole del mio fare videogiochi, no? Cioè, fare videogiochi per produrre creatività, per fare business, per produrre qualcosa che fosse anche intellettualmente interessante, no? E per offrire un modo di pensare come si fanno i videogiochi, non si possono fare i videogames. Ok, forward, ritorno a Time Runners e torno a Solletico. A questo punto, in cosa non mi ero cimentato con i videogiochi? In due cose, pubblicità e televisione. Cioè, me ne ero cimentato come divulgatore, ma non come produttore. E quindi, per Solletico, viene pensata interamente, strutturalmente, che cosa si poteva fare con i videogiochi per i ragazzi. Quindi vengono pensati i videogiochi che i ragazzi potessero guardare, ma anche interagire da casa. Quindi calcio mio, possibilità di giocare a un calcetto a 8 giocatori, 10 giocatori o 8 giocatori, usando i tasti del telefono. I tasti del telefono diventavano, l'interfaccia di quella macchina diventavano i joystick per muovere i pupazzi, questo per 8 giocatori contemporanei, cioè multiplayer per intenderci, sia pure rudimentale, ma che funzionava perfettamente, che i ragazzi apprezzavano moltissimo. Con lo stesso criterio, basket mio, il mio dopo il nome del gioco, il nome dello sport, è per dare l'idea di interattività, no? Mio nel senso sono io che ci gioco. Poi anche tutta una gamma di personaggi creati per la TV, tipo uno zorro che si chiamava Zacco, un curioso sacchiotto, tenete presente che il target era ragazzini tra i età prescolare fino ai 12-13 anni al massimo, ecco. Quella che una volta quando ero ragazzino si chiamava la TV dei ragazzi, la TV dei bambini. E quindi facevamo tutti questi videogiochi per la TV, che va avanti per anni, per 3-4 anni la produzione, quindi ne facciamo un sacco. E poi la pubblicità. E io volevo assolutamente fare videogiochi per la pubblicità, perché ero convintissimo che i videogiochi fossero anche un linguaggio molto potente per la pubblicità. E quindi con Nestlé facciamo i videogiochi di Fruit Joy, le caramelle gommose che tutti conoscerete, e di tutte queste belle cose ci sono tracce sulla rete, quindi se avete voglia scrivete Fruit Joy Game Simul Mondo e troverete le scatole, i giochi, gli screens, e questo vale più o meno per tutto quello che ho citato finora. Scusami, mi è venuta in mente una domanda ricollegata alla prima, che non era una mia curiosità che non hai detto, cioè come mai poi smetteste di fare i videogiochi da edicola? I videogiochi da edicola, allora, a parte che questa cosa dello smettere è curiosa, no? Cioè uno che produce, sì, allora 13 più 11 sicuramente, 13 di Landorp, magari mi sto scordando anche qualche pezzo, 13 di Landorp per due versioni, Diabolic per due versioni, 13 altri giochi, 11 Simulman, 3 Spider-Man e 11 Tex, sempre per due versioni, più 30 Time Runners per due versioni. Non è che ha smesso, è che ha saturato il mercato, si dice in gergo imprenditoriale. Quindi era per quello, per quel motivo lì. È ovvio, perché avevamo i migliori fumetti, avevamo i migliori personaggi dei fumetti. Abbiamo fatto quantitativi industriali di questi fumetti, di questi videogiochi, e chiaramente i mercati sono fatti per essere poi, no, innovati. A me piaceva poi fare cose nuove, non mi piaceva fossilizzare la mia vita su 3-4 anni di adventures, mi sembravano più sufficienti. E poi appunto, siccome si è creata questa opportunità gigantesca della televisione, mi sembrava. Tenete presente anche un'altra cosa, che nel frattempo era venuta fuori una variabile non piccola, cioè l'uscita della PlayStation, e prima ancora quella delle console Nintendo 16-bit, non solo Nintendo, anche Sega e altri produttori, i quali avevano naturalmente occupato uno spazio, primo. Secondo, avevano cominciato a infilare nei videogiochi budget e capitali molto elevati, no? Quindi un imprenditore saggio, secondo me, doveva cominciare a pensare che era importante, no, non prendere direttamente contro giganti come Sony o come questi qui, no? Quindi mi servivano strategie anche laterali, l'edicola era stata una di queste, perché non si potevano vendere cartucce in edicola o CD-ROM di Sega o di NEC o di chi faceva i CD-ROM in edicola, e la TV era ancora più, no? Ci offriva ancora più vantaggi competitivi, ovviamente, no? Sia per l'esposizione del marchio sul mondo, che per il fatto che la pirateria non poteva farci niente. Insomma, ci sono tanti vantaggi, no? A poter lavorare in un, no? In un contenitore come quello lì. Tra l'altro con budget molto superiori, perché la televisione, la Rai, ci permetteva di avere budget elevati. Insomma, considerando che le forze produttive di una casa di produzione non sono mai infinite, è ovvio che l'imprenditore fa le sue scelte, no? E quindi per tutte le ragioni che vi stavo elencando, la saturazione del mercato, insomma, tutte quelle che vi ho elencato, certo. No, ma è chiaro. TV e pubblicità diventano dei segmenti molto interessanti per noi. Vabbè, parliamo quindi del museo del videogioco e del Future Show. Sì, allora il Future Show secondo me è una cosa, un'esperienza di Simon Mondo e del sottoscritto molto interessante, molto importante, perché non c'erano fiere consumer dell'informatica, no? C'era stata una fiera a Milano che si chiamava SimHiFi, che era una fiera un po' consumer in cui si parlava anche di videogiochi, no? Ma non era specifica. E poi c'era questa fiera, poi c'era il famoso SMAO a Milano, però erano fiere professionali. Allora l'idea che mi viene è quella che si può fare una fiera consumer, internet ormai non muoveva più solo i primi vagiti, no? Ma aveva avuto un passaggio chiave, che era quello della nascita dei web browser, no? Quindi del web. C'erano tante cose che stavano bollendo in pentola, videogiochi, internet e compagnia, insomma c'erano tutti gli elementi secondo me per fare una cosa del genere. In quel periodo mi chiedono due soci di immaginare una fiera di questo tipo. In quei tempi le cose succedevano anche così, perché c'erano dei incastri che dipendevano dal fatto che tu eri noto in quel settore, che stai facendo delle cose, e quindi chi voleva fare delle cose per venire a te. Tra l'altro a Bologna. Bologna è una zona, una cosa fieristica, un centro fieristico importantissimo da sempre, e in particolare noto per il Moto Show, la fiera delle automobili e delle moto. Quindi questi mi chiedono di pensare una cosa del genere, di immaginarne anche il nome. Allora io, siccome pensavo che questi imprenditori fieristici avessero chiaramente presente, anche ben caro, il successo del Moto Show, pensai a Future Show, che gli piacque moltissimo subito, perché appunto a me richiamava il coso sempre dei futuristi, eccetera eccetera, loro richiamava anche il Moto Show, quindi insomma fu da subito un'idea ben accetta come titolo, come nome. Quindi progettammo l'edizione 96, la prima edizione, e io ne progettai una serie di eventi, cosa si doveva fare, insomma, una specie di sceneggiatura della fiera. C'era l'Oscar del CD-ROM, quindi ogni anno davamo il premio al miglior CD-ROM, c'era il Museo del Videogame, che organizzai catalogando i 50 games da sala giochi che secondo me erano più importanti. Quindi ogni videogame, c'era il videogioco da sala giochi, la versione da sala giochi, bella macchinetta, con accanto una scheda che tirava fuori quelle famose Polaroid, eccetera eccetera, di cui ho parlato all'inizio del podcast, le mie schede, i miei archivi. Poi niente, qui salta fuori l'idea di fare un CD-ROM da allegare a Repubblica. Il CD-ROM del Future Show di Simon Mondo. Ne ho parlato anche di recente sulla pagina Simon Mondo su Facebook, ma se lo cercate lo trovate. E questa cosa all'epoca gli CD-ROM non usava nessuno, ben che meno li regalava. Per cui questo qui venne regalato e vendette una roba vendetta. Insomma, fu produsse una serie di ristampe di Repubblica fino a 1 milione di copie, cioè una roba dell'altro mondo. A questo a significare che c'era una fame di questo tipo di cose in Italia, che io avevo già sperimentato lungamente su MCI, bla bla bla, tutti i discorsi di prima, che covava sotto, e alla fiera parteciparono 250.000 persone, bloccando le tangenziali di Bologna. Insomma, successe un parapiglia enorme di entusiasmo, a dimostrazione che la tecnologia non era soltanto qualcosa di lontano dalle persone o di utile solo per gli uffici, che era questo il dibattito storico che avevo detto prima, ma che era anche un linguaggio molto stimolante, un mezzo molto interessante, capace di creare network, di piacere, di interessare, eccetera eccetera. Facevamo 3 edizioni del Future Show con me, poi io faccio spesso così, quando una cosa non mi va più, non mi interessa più, la carica di novità si è esaurita, o comunque si è esaurita per me almeno tendenzialmente, e mi inizi a fare 2 cose che sono i capitoli finali di questa storia. 3 cose mi inizi a fare: una rivista su CD-ROM che si chiama Little Computer People, che è uscita in 10-12 numeri allegata a MC Microcomputer e anche per conto suo in edicola. Mi misi a fare Il viaggio nel corpo umano con Piero Angela, quindi un CD-ROM videogame, diciamo così, un edutainment come si chiamavano a quei tempi, e Mosè, un videogame con i Deoniani, che sono i più grandi editori di Bibbie e Vangeli in Italia, oltre ad essere una confraternita molto importante a Bologna, non solo a Bologna. E poi progettai il Soccer Champ, cioè un videogioco su CD-ROM di calcio in cui un giocatore comincia da junior e vuole vincere il pallone d'oro, quindi un adventure role play che era anche arcade. E da ultimo i primi giochi web, ne facciamo 2, uno con Bancasella Bar Sport e uno invece con quella che oggi si chiama Invitalia, un gioco che serviva a aiutare gli start-uppers a creare una startup. Tenete presente che stiamo parlando del 1998, cioè l'anno prima che poi fondassi Finanza World e passassi agli adult games, come dico io, cioè ai giochi. Qui Simon Mondo, per quanto mi riguarda, non ha mai chiuso, nel senso che io più volte ho pensato, immaginato, anche progettato altri videogiochi mobile, per esempio, per smartphone. Abbiamo realizzato dei videogiochi per i navigatori della Magneti Marelli con dentro Mille Miglia. Molte delle cose che ha fatto Simon Mondo non ho neanche avuto più tanta voglia di starle a divulgare più di tanto. Quindi alcune sono, questa per esempio è la prima volta che la dico, non l'ho mai detta in nessuna intervista perché non mi è mai venuta in mente. I navigatori della Magneti Marelli iniziali erano su CD-ROM, quindi tu dovevi mettere dentro il CD-ROM per vedere le mappe, e uno di questi CD-ROM nel kit iniziale era Mille Miglia, un'inversione per il navigatore. Ma comunque abbiamo fatto di tutti i colori, ecco. Ma questo potrebbe esserci la prossima puntata di Simon Mondo dietro l'angolo, cioè un altro game magari per smartphone o online, non lo so. Ma non ho mai avuto come dire lo stimolo finale, cioè non sono mai riuscito ad andare oltre l'ultimo miglio per fare un nuovo videogame, però molte volte ho pensato che fosse possibile. Ma che cosa ti ha spinto comunque a quella, chiamiamola allora, pausa? La lunga pausa, il lungo silenzio, il lungo sonno è dovuto essenzialmente a due cose. Prima di tutto volevo sviluppare un nuovo progetto di finanza democratica, la comunità della finanza che degli investimenti che mettesse assieme tutti gli investitori che non volevano essere gestiti dalle banche, dai fondi, eccetera. FinanzaWorld è nata per questo. Quindi è nata per esigenza mia, cioè io ho sempre investito in azioni dal 1985-86, soprattutto in azioni, ma non solo in azioni, e mi dava moltissimo sui nervi tutta la burocrazia bancaria, i costi, questo qui, che intermediava l'investimento, no? I suoi tempi, i suoi costi, i suoi modi. Da fastidio tutto. Allora, ho inventato un sistema che è finanzaworld.it che bypassasse, interagisse direttamente con gli investitori. Quindi la nostra è una comunità di investitori che possono diventare investitori operativi, ed esiste dal 1999 per fortuna con grande successo. Quindi continua a esistere. Quindi il primo motivo è che volevo sviluppare questo progetto. Infatti, se guardate l'ultimo numero di MC, annuncio FinanzaWorld. Nella mia ultima collaborazione MC, descrivo FinanzaWorld e quali erano i miei interessi nuovi, eccetera, eccetera. Questo da un lato. Dall'altro, secondo me, da un punto di vista imprenditoriale e anche da altri punti di vista, non c'erano più le condizioni. Io sono un imprenditore anche e un investitore. Cioè, so quando ci sono, penso di sapere, spero di sapere, quando ci sono le condizioni, e quando le condizioni ci sono. Vi ho parlato poco fa della PlayStation, vi ho parlato, e devo dire che non ho avuto torto, perché poi da quel momento, l'ultimo videogioco di Simon Mondo è pubblicato è 98, da quel momento i budget dei videogiochi sono esplosi, e da decine e decine di players importanti per paese, centinaia negli Stati Uniti e in Giappone, oggi siamo passati a pochissimi players rilevanti. Cioè oggi le case di produzione di videogiochi che contano saranno al massimo, io parlo del mainstream, non delle indies evidentemente, cioè non delle etichette dei videogiochi artigianali, insomma comunque fatti per altri circuiti, ma stiamo parlando di 10 produttori. La legge di Pareto è stata inesorabile, ovviamente, anche in questo caso, no? La legge di Pareto dice che quando matura un settore, il 20% dei players si cuccano l'80% del business. Ed è successo anche nei videogames, quindi devo dire che è stata anche un'ottima idea quella di prendere una pausa. Assolutamente. Adesso due parole, Francesco, quindi hai anticipato FinanzaWorld, che è la tua attuale principale occupazione, non l'unica, so bene che non è nella sola, quindi è la omonima società di cui sei presidente, dove, come ci hai spiegato, parli di finanza democratica. Quindi puoi dirci un attimino che cosa fate esattamente a FinanzaWorld? Sì, io mi sono scordato di dire che già che c'ero ho insegnato all'università per 12 anni, prima alla Sapienza a Roma e poi alla IULM a Milano, insegnato videogiochi, comunicazione interattiva, digitale, finanza digitale, finanza online, come si chiamano queste robe qui, fintech, come si chiama adesso. Poi alla fine ho fatto lo stesso ragionamento che vi ho raccontato su un mondo. Possibile che non ci sia modo di investire senza avere a che fare sempre con le banche, cioè? Poi ho tutto detto, beh, basta, mi sono stufato di aspettare che qualcuno si inventi una modalità per investire da soli in autonomia, in indipendenza, eccetera. E ho creato FinanzaWorld, che fa esattamente questa cosa dal 99, cioè fa educazione finanziaria usando un linguaggio semplice e per tutti, non un linguaggio volutamente criptico degli addetti ai lavori o addetti ai livori, come direbbe il mio amico Roberto D'Agostino, e fa divulgazione finanziaria, quindi attraverso corsi eccetera eccetera, videocorsi, webinar, queste robe qui, e fa investimenti operativi, con tutta una gamma di newsletter che contengono portafogli che si possono replicare, contengono alert che si possono, di titoli che si possono investire, su cui si può investire, produce libri, collane di libri con Apogeo, con altri di voi. Programmi televisivi abbiamo fatto con la Rai, ho fatto Net Stocks per 3-4 anni su Rai News 24, su Rai 3, insomma di tutto di più, con tanti tipi di abbonamenti premium, platinum, super premium, che servono agli investitori che hanno da 1000 euro a, noi abbiamo investitori che hanno 1 miliardo di euro, che hanno venduto loro aziende, che hanno venduto aziende che sono state pagate 1 miliardo di euro, che poi vengono investiti attraverso i meccanismi di Finanza World. E chi volesse contattarti per saperne di più su questo o su altri argomenti, come può farlo, Francesco? Allora, può farlo scrivendo a f.carla@finanzaworld.it o a francesco.carla@gmail.com. Carla, non Carla, perché io sono della generazione in cui internet ancora non gradiva gli accenti. E quindi, e poi per cose che riguardano Fisimo il Mondo, abbiamo la pagina ufficiale su Facebook. Per quello che riguarda Finanza World, idem, abbiamo la pagina ufficiale su Facebook. E io sono su Facebook come Francesco Carla, su LinkedIn come Francesco Carla. E ho un'ultima domanda, Francesco: giochi ancora ai videogames? E se sì, qual è il tuo videogioco preferito? Il golf. Sono pazzo da sempre del golf sul videogioco, su PlayStation. Da sempre poi sono pazzo del golf sul computer. Mi godo un bellissimo golf di due fratelli americani, fratelli Roger e Bruce Carver, che si chiamava Leaderboard su Commodore 64, che è tuttora nella mia mente un capolavoro, mentre più di recente gioco a PGA su PlayStation, dalla versione della PlayStation 2 fino a quella attuale. Ed è bellissimo perché si può stare dentro questi meravigliosi campi degli americani, che sono delle cose stupende, Torrey Pines, tutti gli altri grandi campi, Augusta. Poi mi piace moltissimo anche pescare con i videogiochi. A Simon Mondo abbiamo fatto un bellissimo game di pesca che ho fatto proprio per quello, perché mi piaceva la pesca, che si chiama Big Game Fishing, che è un gioco di un simulatore di pesca in alto mare, ai blue marlin, ai pesci a spalle. Quindi questi sono i due miei filoni preferiti di videogiochi oggi. Poi ogni tanto qualche adventure che mi piace molto, cioè che mi attiri molto, me la gioco. Ho praticamente lasciato perdere i giochi arcade, Call of Duty. L'adrenalina in questo momento non è la mia priorità. Allora, permettimi innanzitutto di ringraziarti. Io so che tu sei abbastanza parco, insomma, diciamo così, di questo genere di cose, quindi è stato davvero... L'ultima è roba del 2015, credo, 14, mi ricordo, 12. E quindi abbiamo avuto un sacco di informazioni, anche molte cose che non sapevamo. Io posso dire, insomma, conoscendo Francesco da un po' di anni ormai, che vuol dire che siamo invecchiati purtroppo, Francesco, no, che è proprio come lo avete sentito. Francesco è esattamente come si racconta e come lo avete sentito. E con questo, ringraziandoti ancora, passo la parola a Carlo, non so se hai qualche cosa finale. Allora, grazie innanzitutto, ancora i ringraziamenti a Francesco che ci ha concesso questa intervista, che ha svelato tantissime cose molto interessanti anche dal punto di vista storico di quello che è successo in quegli anni e che sicuramente rimangono e sono utili per raccontare cosa è avvenuto in quel primordi del mercato del videogioco italiano, in cui il videogioco si stava diffondendo in tutto il mondo e noi in Italia iniziavamo diciamo, purtroppo con il nostro mercato un po' malandato, a cercare di esserne protagonisti. E Bull Mondo ne rappresenta sicuramente una delle facce più conosciute e note, non solo in Italia, ma anche a livello mondiale, insomma, in quegli anni. Quindi grazie ancora Francesco per quello che ci hai raccontato, e probabilmente, magari, forse ci rivedremo in futuro per qualche altro approfondimento, certo. Per qualche altra domanda, ecco. Quindi una cosa molto importante che dico nel ringraziare a mia volta voi e i vostri ascoltatori, non ho mica fatto tutto da solo, ho avuto in questi anni decine, centinaia di collaboratori, sia nella produzione di videogiochi che nelle organizzazioni di eventi, di riviste e quant'altro. Voglio qui dire che non li nomino per ragioni molto semplici, perché sono tanti e nominarli tutti sarebbe un elenco micidiale che forse non piacerebbe nemmeno agli ascoltatori, e poi ho anche paura di dimenticarne qualcuno, sta facendo, che è una delle cose che poi diventano imperdonabili sulla rete e in cui non ho la sua intenzione di incorrere. Quindi colgo l'occasione anche per ringraziarli tutti dal 1985, cioè, perché io avevo già tanti collaboratori per MC, per Play World e per altre cose, e dall'85 prima ancora fino ad oggi. Grazie a tutti voi. Grazie ancora, grazie. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.